Vlog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Mi domandate perché mai uno scrittore americano viva a Roma. Prima di tutto perché piace i romani, che si frega niente se sei vivo o morto. Sono neutrali, come gatti. Roma è la città dell'illusione. Non a caso qui c'è la chiesa, il governo e il cinema. Tutte cose che producono illusione. Come fa tu, come fa io. Sempre più il mondo si avvicina alla fine perché è troppo popolare. Gli americani. Troppe macchine, veleni. E quale posto migliore di questa città, morta tante volte e tante volte rinata? Quale posto più tranquillo per aspettare la fine da inquinamento, sovrappopolazione? È il posto ideale. Fantastico per... Gore Vidal, che amaramente commenta il fatto che Roma è una città che tante volte muore e tante volte rinasce. Quale sarà la patologia per cui sta morendo anche questa volta, visto che sui giornali non si parla altro che di Roma? Si parla di Roma come il punto più profondo della putritudine umana. Roma, non ci sono solo foto di immigrati che fanno la cacca per terra nei marciapiedi di Roma. Ogni giorno ce n'è una. L'altro giorno c'era un signore alla stazione Termini, ieri un'altra signora corpulenta dietro un'automobile, per dare proprio il segno della putrefazione. E in questa felice mattina che abbiamo il più clamoroso e il più potente dei nostri traini, la prostata, assieme a il grande Sansonna, tocchiamo il tema di Roma, città eterna, come la narrò il cinema e come voi, chiamando l'800240024, ci aiuterete a fare questa mattina. Giuseppe, buongiorno. Buongiorno, sono commosso per l'accostamento alla prostata. Sentito, ma è importantissimo. Comunque i romani, come diceva, è il traino più potente, quello della prostata. Sempre, sempre. Le viscere romane. No, le vene varicose un po' meno, la prostata fondamentale. No, noi siamo già praticamente... Siamo nell'organico. Nell'apice dell'ascolto, quindi... usiamo bene questo vantaggio. I romani, come diceva appunto Stendhal, sono sempre allegri perché per essere tristi bisogna avere un minimo di speranza. Quando si calò nel suo viaggio in Italia e in questa Roma malandrina e sbruffona, riuscì a cogliere quello che poi i registi che analizzeremo oggi hanno eviscerato, hanno colto sempre un eterno ritorno del disincanto. Nascere e morire mille volte, come dice Gore Vidal in questa piazza di Trastevere. Il film era Roma di Fellini e lui stava lì con gli amici americani a sorseggiare e ad aspettare una fine che sembra non venire e sembra essere sempre imminente allo stesso tempo a Roma. Si sta su questo bilico. Ecco, sarà difficile, secondo me, immortalare la contemporaneità attraverso un film. Sarà forse più facile farlo attraverso una serie televisiva, come appunto Gomorra, Romanzo Criminale, sarà fantastico. E in arrivo Suburra, infatti. Suburra è una serie che appunto si iscriverà in questo grande racconto popolare che stanno facendo queste ultime serie. Sono molto curioso di aspettare appunto. Sembra quasi che l'ennesima replica di Romanzo Criminale, ormai sta cominciando a dare i colpi, si dà nuova materia per scrivere nuove puntate. Certo, ma proprio se pensi che Carminati dirigeva tutto col suo occhio all'ACAB, l'occhio tappato da un benzinaio di Corso Francia, c'è già lo spirito cinematografico. Sì, ma è il nero di Romanzo Criminale, un appunto. Personaggio che già esisteva, quindi potranno continuare una spin-off, le avventure del nero attraverso le vicende della municipalità romana. 800240024, fatevi sentire cosa pensate di Roma, come la leggete attraverso i giornali, come ne sentite parlare. È ormai lontano il tempo in cui si diceva il ventre molle, Roma ladrona. Oggi cosa è Roma per voi? Commendatore, si tratta del più grande supermercato d'Europa con terrazza, eliporto e garage parcheggio. Solo il garage, che ha una capienza eccezionale, dovrebbe convincerlo a dare il permesso. Guardi bene il garage, che fa corpo a sé. Lo apra. Sì, sì, non discuto, ma io non posso autorizzare un'iniziativa. Ma provi che... ad aprire il garage. Provi. Grande ingegnere, le ho già detto che non posso. Assolutamente. No, eccellenza, mi permetto almeno di segnalarle la straordinaria capienza del garage parcheggio che fa corpo a sé. Ho visto. Ma non è questione di capienza di garage. Perciò la prego di non insistere in una richiesta che non esiterei a definire... Mi perdoni, eccellenza. Ma apra il garage. Le ho già detto che non posso assolutamente. Anna, da 20 anni pratico Reiki, non ho più la cistite. chiede un ascoltatore, Antonio, ma cosa dite? Le urine vanno alcalinizzate, non acidificate. Giuseppe Sanzon. Alcalinizzate. Comunque invece questo era Fantasmi a Roma di Pietrangeli, genio assoluto, che nel 61 già descrive una Roma sconciata dalle speculazioni edilizie, in cui i corruttori si presentano con tanto di plastico dei palazzi a costruire. Hai notato, quando c'è un attacco di colite spesso viene anche la cistite, lo dice Alessandro. Ma infatti, ma lo sapevo comunque. Lo chiede Alessandro. Sono risapute, dai, sono cose. Però andiamo avanti. Andiamo avanti su Pietrangeli, sui grandi garage, che questi plastici che porta questo corruttore, e nei garage puntualmente il funzionario apre il garage e trova banconote impilate, sempre più evolute, sempre più lanciate verso il cielo, come i palazzi e gli sconci edilizi che hanno deturpato Roma in tutto il dopoguerra. Pietrangeli con la sua... Mi puoi spiegare il ruolo dei proibitivi o simbiotici nelle cistiti ricorrette, sorrette da Escherichia coli? Scherichia coli, sì, questo ne avevo sentito parlare un tempo, ma... Vai, allora. Pietrangeli nella sua grandezza racconta questi fantasmi della Roma che lui ama. I fantasmi sono gli unici che cercano di conservare lo spirito. Mio papà, portatore di catetere da 7 anni, Dolmer Till rosso americano. Stai facendo lo spin-off della trasmissione precedente. No, scusa, momento debolezza. Quindi questi fantasmi, che sono Tino Buazzelli, Mastroianni, meravigliosi, sono gli unici che vogliono conservare lo spirito più antico di Roma, e quindi gli speculatori edilizi sono chiaramente i loro nemici naturali e li vogliono fare. Ma di che anno parliamo qua? Del 61, più di mezzo secolo fa. Quindi diciamo che era una profezia che era sempre scritta nelle carte dell'Italia appena ricostruita dal dopoguerra. Certo, era già lì il destino. Quindi perché oggi la gente casca dal pero, sembra chissà cosa sta succedendo. È un finto stupore. È un automatismo, appunto. L'autoavverarsi è una profezia antica come antico il mondo. 800240024, chiamate, esponete il vostro problema, sia di origine cateterica che di origine catartica rispetto a quella che è la capitale d'Italia. Sono Giulio Antonio Serviglio, procuratore della Repubblica Romana. Si ricorda di me, vero? Corrutto sorcio milanese. Che c'è sta a fare a casa mia, eh? Guarda, chiami i pretoriani e te faccio restare. No, guarda, la faccio restare io. Anzi, tenga. Che mi dai, che è sta roba? È un avviso di garanzia. Lega pure. C'è su un po' di tutto. Evasione fiscale, impicci, imbrogli, insomma... Ma chi ti racconta tutte queste fregnacce? Una sua amica, una certa Ottavia, sì. È il tribunale di Roma? Dovrebbe credere alle parole del mignotone? Ma ci ho creduto io. Vabbè, ci vediamo in tribunale, Grazie, arrivederci. Ma che fai? Non mi tocchi, mi chiede lei. Scusa, non volevo assolutamente mancare di rispetto. Beh, volevo Giuseppe. Solo chiarire. Questo è il capolavoro assoluto, SPQR con la coppia ruggente Boldi De Sica. La cosa più sconcertante di questo film è che è del 94. Sono passati 20 anni. Sono passati più di 20 anni. 21 anni. E quindi nel suo modo appunto molto, anche se vogliamo dozzinale, ma di impatto, di sicuro impatto, senza essere troppo neanche... tutto sommato assolutorio di questo mondo, compiaciuto come tipico di certo cinema popolare, però descriveva questi ritratti di una Roma felicemente, slanciatamente corrotta, con addirittura il senatore Christian De Sica, poi il classico cliché del milanese, l'occhio milanese che guarda la corruzione di Roma, che la fa emergere, cioè la purezza del nord che arriva nel sud intriso, nel sud romano insomma, intriso di corruzione, di corruttela, e quindi ne fa emergere le contraddizioni. Certo, ci sono già tracce labili del medesimo atteggiamento di contrapposizione di Weltanschauung nel noto episodio in cui il milanese Boldi va a vedere la partita deve immedesimarsi nell'essere romanista che rischia la vita. E lì c'erano i Lawrence Olivia del nostro tempo, c'è cioè Bernabucci e Mattioli che fanno i due romanisti tatuati col lupo sulla pelle della Roma, e lui che si finge romanista in questo... L'attore deforma se stesso, va oltre se stesso, Boldi lì riesce a toccare un vertice che poi non ha più, è stato tutto un discendere dopo nel cliché. Sì, purtroppo ha avuto una fase calante. 800240024. Beatriz, buongiorno. Ah, buongiorno. Senta, una cosa semplicissima, io subisco Piazza Vittorio, sono 37 anni che abito qua. E non è contenta? E non le piace? No, mi piace assai, amo il mio quartiere, però... la impossibilità di fare il mio dovere di cittadina civile mi è vietato, e volevo chiedere perché hanno levato i Vespasiani. Forse Piazza Vittorio era dei pochissimi quartieri dove c'erano questi Vespasiani che oggi... Mi dispiace che non ho più l'esperto in studio sulla cistite, sul catetere, però le posso dire, avevano un loro perché architettonico, quella sorta di sipario in alluminio, in lamiera, che isolava naturalmente l'intimità del momento della minzione dell'essere umano di genere maschile, naturalmente non c'era corrispondente per le donne, sulle cui pareti interne c'era sempre la pubblicità del MOM, che era la polverina contro le piattole. Tu ti ricordi? Si ricorda, ecco, ma lei ci andava dentro i Vespasiani gli uomini, no? No. E come faceva a sapere c'era la pubblicità del MOM? Oggi, come sapevo che? Che c'era la pubblicità del MOM dentro gli urinatoi maschili. No. Guardi, io appena arrivata in Italia dall'Argentina, era il 77, sono andata ad Ostia. Sì, e ho preso questo che non avevo mai avuto in vita mia. Le piattole. Chiamate piattole. Sì, ma non è che si prendono prendendo il sole, onestamente. No, si prendono sulla spiaggia, sulla sabbia. Se non si è soli, onestamente. Come se non si è soli? Cioè, no, io ero lì con tutti i miei 5 figli. Vabbè, comunque, lo stesso problema c'è la stazione Milano, dove si stanno prendendo la scabbia, perché c'è una epidemia di scabbia alla stazione Milano. Come vede, è un momento particolarmente virulento da questo punto di vista, quindi non attribuirei alla materia palpitante di cui stiamo parlando e questa sorta di stigma eterna di degrado che attraversa la città di Roma. Roma è diventato un mortorio. Tu? Non succede mai niente. Tutti a sbattersi il petto, tutti a piangere. E allora... anche un'esecuzione di giustizia, perlomeno è una cosa nuova, uno spettacolo, un divertimento. Al tempo di Nerone. In tutti i tempi, figliolo, in tutti i tempi. La ferocia è sempre stato il sollazzo del popolo. E se uno glielo nega, glielo manda per le lunghe, si capisce che il popolo si ribella. Per cui, pur apprezzando il vostro zelo, mi sembra arrivato il momento di accontentare il popolo. E come accontentarlo, Eminenza? Quelli non si sono ancora pentiti. Pazienza. Ma che pazienza, se li ammazziamo adesso finiranno in terra sconsacrata, in mezzo all'Iguizia, all'impuniti, alla mignotte. Ma non possiamo mica salvare tutti. Eminenza, con tutto il rispetto, noi dovemo salvare tutti. Siamo preti. Questo è un altro, è un settore che devo dire non è molto lambito in quest'ultima ondata di vituperio verso Roma. L'aspetto ecclesiale non viene toccato. In questo momento hanno a che fare con politici corrotti, con ladroni romani, con vecchi residui di antiche uscite dalle regole, ma ancora non si tocca un prete. Invece qui piombiamo nella Roma papalina descritta da Luigi Magni. C'è la nasalità indolente di Tognazzi che fa il cardinale, e che nel 1825 appunto verranno condannati questi due carbonari. Lui descrive molto bene l'atteggiamento della folla, che appunto abituata a vedere teste che cadono, abituata a vedere visceralità, sangue che scorre, quindi indolente si scrolla le spalle e procede avanti, anzi è un momento di intrattenimento. Sul sangue di quei due però lo pagarono caro, e poi arrivarono i francesi e fu un problema per tutti. Ci fermiamo un istante per il traffico, tra poco. Melog, cronache meridiane. E questi sono i rari miei, protettori della nostra proprietà. Affarone, Contentone e Guadambione, propizi siano gli dèi. Ho sopportato per 14 anni le espansioni del mio padrone, che cede male il padrone che comanda. Io però trastullavo anche la padrona. Alla fine, per volontà degli dèi, diventai coerede con l'imperatore. Costruii 5 navi, le caricai dell'ardo, de profumo, de schiavi. Così principiò la mia fortuna. Tutto quello che tocco cresce come un favo. Ero una cimice, oggi sono un re. Questa è la vita. Tu, Stico, prepara i miei paramenti da morto e l'unguento e porta un assaggio del vino. 800240024, vorrei parlare del degrado di Roma, ma sono costretto, essendo radio di flusso, a dare anche segnali dei messaggi che continuano ad arrivare in quantità, che ancora sono la coda della trasmissione precedente. Chiama Isella da Modena. Volevo chiedere al professore se sono vere le relazioni tra l'apparizione della cistite e la pratica dei rapporti anali. La giro a Sanzonna, non so cosa rispondere. No, io risponderei col satirico che abbiamo appena ascoltato di Fellini del 69. Questa grande cena inelegante in cui siamo sempre immersi, che è quella di Trimalcione, in cui appunto arrivano parvenu, come lo stesso Trimalcione. Che avranno tutti la cistite, così non risponde. Beh, sì, c'è un momento in cui un medico, una ruspice in realtà, ne ascolta i rutti e ne descrive il futuro e lo stato di salute di Trimalcione stesso, quindi dalla vibrazione del rutto, dal timbro del rutto stesso, dell'emissione, capisce cosa accadrà. Lo stato delle viscere. Lo stato delle viscere e il futuro, quindi che ci sarà. Quindi qui c'è Petronio arbitro, ma qui siamo rimasti dall'età neroniana ad oggi, non è cambiato anche qui molto. Fellini lo coglie molto bene. Ricordi un paio di generazioni fa di Malaffare romano, la famosa ricostruzione della cena Trimalchionis con le facce da maiale, sì, con sì, i coppieri, con i triclini, queste cose qua. Beh, se ti guardi intorno nei volti, girando per la nostra città, i volti sono rimasti gli stessi, questo lardo ceduto, questi doppi menti, questi sguardi fra il bovino e con saettati da lampi di ferocia, sono comunque antichi, millenari, rimasti identici. Te l'immagini col grappolino d'uva all'orecchio che palpeggiano, sì, sì, con una mano il ragazzetto e con l'altra mano le poppe della ancella che versa il vino. Riccardo, buongiorno. Buongiorno. Stiamo in ascolto. Sì, niente, come dicevo alla centralinista. No, finisca il panino se vuole, aspettiamo. Non sto mangiando. Sono sceso giù dal mezzo. Niente, volevo solamente dire che, siccome lei ha detto prima che la gente, è strano che la gente sembra che sia caduta giù dal pero. Perché sì, tutti meravigliati, Dio mio, che sarà mai. Sì, appunto, ma invece queste cose qua le sapevamo tutti, cioè ce le immaginavamo che sarebbero successe e infatti sono venute fuori. Per fortuna sono successe, così siamo tranquilli. Ma sono 50 anni che è così, infatti lei prima insieme al suo ospite stavate appunto commentando il film che avete fatto sentire, di cui avete fatto sentire. Beh, la prendo un po' lunga, grazie dell'intervento, è stato molto interessante. Enzo, buongiorno. Buongiorno a voi. Dunque, secondo me, e non solo secondo me, insomma, Martin Lutero se ne accorse che le cose non andavano . E iniziò quella forma di avversione di una chiesa nuova e pulita e venne la riforma, che si chiama protestantesimo. Lei è un protestante? Ora tira acqua al suo mulino, scusi, sta facendo. Non ho capito, scusi. Lei è protestante? No, io sono totalmente ateo, agnostico. Ah, vabbè, allora fa così. Anzi, le dirò, sono nemico delle religioni. Vabbè, le religioni sicuro. Sopravviveranno anche alla sua purtroppo, ostilità. Vanno di pari passo con l'ignoranza. Al punto, andiamo al punto. Dunque, quindi la base di tutto, diciamo, è il centro del mondo cristiano che dà questa. Beh, Roma era anche da prima accadeva. La Chiesa è sempre stato un elemento di deterioramento dei valori morali di qualsiasi società. E infatti lo vediamo in Italia stessa, dove ha regnato nel Sud, il Sud che una volta era invece il nord attuale, e cioè evoluto, ricco, diciamo il cancro clericale ha rovinato il sud. Beh, oddio, non è che al nord anche adesso in tante ex sagrestie d'Italia stiamo meglio, ma anche in regioni fortemente laiche come l'Emilia, come l'Umbria, non è che si vedano angeli spiccare il volo verso il cielo, però prendiamo per buona la sua lettura visto che è la sua opinione. Buonasera signori. Buonasera, come va? Non me la metti. Mi sono fatta la Giulietta. Oh, me l'ho stufato. Oggi che non c'è la grana è proprio un fesso. Grazie. A nome di tutti i fessi. Ma che c'entra? Tu sei un idealista. Che lavoro fai? Faccio il falco. Il falco? Sì, rimorchio il turista solitario e lo porto nei night. La passiamo una bella serata romana. E io ho la percentuale. E rende? Ieri sera ho fatto due bolli. 180.000 lire. Ah, io ho il 30%. Questo, diciamo, è un sottobosco romano noto, ma ha le spese soltanto delle transumanze di tedeschi, giapponesi, vanno giù per via Veneto a cercare le vestigia della dolce vita. Esattamente, però questo è contemporaneo quasi alla dolce vita, perché è un film del 62 di Luciano Salce, cioè dove c'è un inedito protagonista, Luigi Tenco, in nero da esistenzialista, che guarda con occhio impegnato da idealista per l'appunto una Roma corrotta, sia nei suoi gangli più più tenui, come quelli più bassi, quelli di questi piccoli truffatori che agganciano turiste a Via Veneto. Quindi descrive il lato del boom oscuro di chi non ce la fa, di chi non era adeguato a salire sul carrozzone, spesso illusorio, come poi abbiamo ben visto nel corso dei decenni. Siamo arrivati alla fine, diamo anche giusto spazio all'alto versante degli ascoltatori, quelli che pensano di continuare a fare domande. Risponde un ascoltatore, dice: non sveglia l'educanda signora argentina che le piattole forse arrivano dal marito, dai facili libertini usi, Riccardo da Roma. Un romano che, ahimè, spietato, colpisce nel cuore la signora argentina che era andata a Ostia con i bambini e mai pensava che non dalla sabbia e da parassiti che sopravvivono nel bagnasciuga potesse venire quell'infamante morbo che viene reclamizzato, veniva all'interno di quegli orinatori che lei non vede più, e quindi qualcosa le manca, come a Pasolini mancano le lucciole, le notti romane, a lei mancano gli orinatori nella piazza di Vittorio. Arrivederci.